Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. I funamboli sono ritornati alle 9:07, una nuova settimana in diretta fino alle 11. Cara Veronica, per fortuna in questa puntata non si parla di calcio, cioè in questa trasmissione non si parla di calcio. Ho detto non si parla di calcio. Tu sei un ragazzo non fortunato. Non si parla di calcio. Ma tanto fortunato, perché io di calcio non capisco niente. Vero che tu non ami il calcio. Però una cosa la capiscono tutti. Che cioè, cosa? Se il Milan perde clamorosamente contro la Lazio e guarda un po' il caso quali sono le due città che si vanno a battere proprio mentre io sono qui con te tenuta in ostaggio. Entra anche Luis Alberto, stiamo parlando. Immobile 2-0 per la Lazio, doppietta di Ciro Immobile. Vabbè, perché la Lazio ha questi colpi di scena, capito? Magari perde, ma poi quando si tratta, cioè, così, allora, tac, Veronica colpo Gentili, di reni, colpo non di sa reni. Nulla di calcio, nulla, nulla. Adesso potremmo farle un esamino proprio da ABC, nulla. Però oggi è laziale, così, allora, oggi è laziale. Non ieri si mi sono perché. Anche fatta spiegare da papà lo SPAL, lo SPAL di che città fosse. No, lo SPAL. La SPAL è quella che c'ho qua sopra. È solo quella. Ecco, cioè, voi vi rendete conto. La spalla tenga a cama. Lo SPAL, amici di Ferrara. Lo SPAL. Amici di Ferrara, ridente, meraviglioso posto. Perché si chiama SPAL la squadra? Per confondere me? Ma no, dai, adesso è società polisportiva. Adesso non so qual è l'acronimo. Comunque, la SPAL. Lo SPAL. Però lo SPAL, la SPAL o gli SPAL. Ti voglio comunque dire che il Milan ha fatto una figura barbina. E lo so che adesso mi scriveranno dicendo: no, dai, questa dello SPAL. L'ha detta apposta, perché è proprio crede. Nella scrittura della trasmissione. No, veramente. Io ti invito giuro. Però ad alimentare questa mitologia, che io faccia un po' quella naif, perché in realtà non so nemmeno se sono vivo o se sono morta. Vedi, i nostri ascoltatori, società sportiva Arset Labora. Io mi scuso, SPAL, io non voglio minimamente mettere in discussione sarà il fatto società che polisportiva, che sia un acronimo, assolutamente. Arset Labora, poi esatto, Arset Labora, che cos'è? Arset Labora. Allora, sono assolutamente d'accordo. Detto questo, però, comunque il Milan, come si dice, ha scagliato. Ha scagliato. Eh sì. Vabbè. Ha perduto? Signori, meno male che non si parla di calcio. Alle 9:09. Oggi parleremo di tanti temi. Allora, io sono rimasto colpito da due cose. Forse da due cose vogliamo partire. Io spero che queste quattro parole mi sono fatto trascinare, pronunciate da uno dei due carabinieri che sono accusati di un reato molto grave, cioè lo stupro di due ragazze americane a Firenze, chiudano un po' il varco a tutte le parole vergognose che sono state riversate sui social, ma si sentono anche nei discorsi da bar, da parte, devo dire, cara Veronica, di noi maschietti, soprattutto di noi maschietti, quelle parole del se la sono cercata, erano ubriache, come se essere ubriache sia e fosse una attenuante per il carabiniere o chiunque abbia un rapporto sessuale con una donna. Invece è un aggravante, perché se una ubriaca chiaramente va da sé, non è in grado di intendere e volere. Insomma, eppure se ne sono sentite di parecchie. Allora, guarda, io quello che ti posso dire, Alessandra, è che il reato, questo tipo di reato, è particolarmente odioso, e ovviamente è particolarmente odioso qualora poi tutto quanto appunto venga confermato, ma diciamo che gli estremi, insomma, diventano i confini. Si stringono sempre di più, perché uno dei due carabinieri ha confessato, parlando appunto di ragazza consenziente, che è l'altra espressione veramente insopportabile, esattamente come se l'è cercata, che invece sottende il fatto che una donna sia di facili costumi in base a come è vestita, a quello che sta facendo, ubriaca. Al fatto che di notte si trovi in un locale, beva, una delle due forse aveva fumato hashish, insomma, piccole cose che fanno parte appunto dei costumi di ragazze molto giovani che si possono trovare all'estero, e il discorso è sindacare i costumi e come una donna si è comportata e non quello che è accaduto. Tra l'altro, a proposito di questo, ho trovato particolarmente infelice l'uscita del sindaco di Firenze, di Nardella, che parlando di questo, del fatto verificatosi, dello stupro, invece di focalizzarsi su questo e di distinguere i campi, ha pensato bene di fare di tutta l'erba un fascio, parlando di una Firenze che non è una città, non è Disneyland, non si può avere queste usanze, questi costumi, sì, dissoluti in questa città, dove si viene, insomma, in un contesto, cioè, in cui non è proprio possibile farlo, perché si sta parlando di uno stupro, di un eventuale stupro, ad opera oltretutto di esponenti pubblici ufficiali. La questione è comunque molto aperta. Se volete chiamarci su questo 800 24 0024, certo, frasi vergognose se ne sono sentite, giustificazione, è anche vero, è assolutamente vero che qualora questi due carabinieri poi si accerterà hanno compiuto qualcosa che non va, uno l'ha anche ammesso dicendo non so che cosa mi sia successo, mi sono fatto trascinare, non per questo insomma adesso si va a dire l'arma dei carabinieri, no? le responsabilità sono sempre individuali. Ma ha colpito però un'altra cosa, vogliamo stimolare gli ascoltatori anche sulla questione del maltempo. Io una cosa non ho sopportato, stavo arrivando qui in radio, sentivo GR24, siamo riusciti a buttarla in politica anche sulla pioggia, signori. Anche sulla pioggia, a Roma le polemiche col sindaco Raggi, la pioggia del 5 Stelle, a Livorno ci sono tra l'altro una tragedia, sono dei morti, la pioggia, il 5 Stelle, il sindaco, l'allarme. A Livorno è diventata una questione cromatica, rosso o arancione, a seconda del colore che d'allarme dato diventa colpa di uno o colpa di un altro. Ma ormai la sensazione è un po' che qualunque sia l'argomento, appunto, che siano gli stupri, che sia l'immigrazione, che sia il tempo, sia tutto un ping pong politico, per cui la questione centrale passa completamente in secondo piano. Tutto politica, guarda, sì, il titolo, sì, della stampa, c'è anche questa cosa, tempesta killer su Livorno. No, la tempesta non è killer, la pioggia cade dall'alto verso il basso per la forza di gravità, d'estate c'è il sole, in genere d'autunno piove, talvolta tanto, la tempesta non è killer, la pioggia ha fatto il suo compito, è caduta. Il dubbio ce lo poniamo su alcuni fenomeni invece atmosferici, meteorologici un po' più inquietanti, come quello, certo, che è successo in Messico, negli Stati Uniti. Se lì ci siano delle problematiche così anche dovute un po' al comportamento umano, è una questione invece più ampia. Però nel caso dell'Italia sono assolutamente d'accordo. Ci ogni volta con rinnovato stupore, ha piovuto. Ha piovuto. Allora dai, alle 800 24 0024, questo è il numero per chiamarci, oppure se volete scrivere una mail funamboli@radio24.it. Gli sms al 349-238-6666. Ma noi vogliamo partire dal primo funambolo odierno. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. La morte e le tasse? Sì. La morte e le tasse? Strana accoppiata. È solo un detto, signor Black. Da chi? Non importa. Allora perché l'ha citato? Non conosce la frase "al mondo nulla è inevitabile tranne la morte e le tasse"? Ora la conosco. Signori, vi vogliamo mettere di buon umore e parlare il lunedì di tasse. A noi fa piacere, tasse, perché è lunedì mattina, sì, piove, finita l'estate, ricominciano, sì, le scuole. E noi, oltre a ricordarvi che dovete morire perché è importante, ci mettiamo le tasse. Ah, che belle le tasse. Le tasse bellissime, come diceva Padoa-Schioppa. Però no? Ale, bellissime. Diciamo che noi gli portiamo le tasse con una prospettiva un po' diversa. Esatto, esatto, non vogliamo proprio ammorbarvi. Abbiamo qui davanti un libro, cara Veronica, è scritto da Gianluca Massini Rosati, il titolo è "Pagare meno tasse si può". Vedi che comunque la viriamo in positivo. E precisiamo subito che non è uno pseudonimo del mago Houdini. No. È proprio una persona in carne ed ossa, tangibile, che nonostante queste premesse esiste davvero, no? Esatto, è colui che ha creato l'escapologia fiscale, cioè proprio la possibilità di pagare meno tasse possibile. Massini Rosati, buongiorno, eccoci. Buongiorno Alessandro, buongiorno Veronica. Buongiorno. Allora, parliamo di tasse. Ecco, in un paese in cui si sa la pressione fiscale è molto alta, no? Siamo uno dei paesi in cui si pagano più tasse. Questo lo sanno i nostri artigiani, pensionati, coloro che hanno la partita IVA. Tutti lo sanno, Massimo Rosati, no? Lo sa anche lei, ovviamente. Assolutamente sì, soprattutto se non si è sviluppata quella che io chiamo intelligenza fiscale, quindi la capacità, l'abilità di trovare le giuste norme per abbatterle legalmente. Esatto, il concetto di intelligenza fiscale è meravigliosa, è come intelligenza emotiva, intelligenza fisica, cioè, giustamente intelligenza fiscale. Ma lo sanno i nostri commercialisti che ci ascoltano, pagare tasse è un, cioè, il regime fiscale in Italia è un ginepraio di norme, regole, codici, codicilli, per cui insomma o ti viene il mal di testa ma sei rosati, oppure uno lo impara bene. No? Allora l'OCSE ci dice che noi abbiamo una pressione fiscale in Italia che è circa del 43,3%, esatto. Mi corregga se sbaglio, Rosati, è giusto? Teoricamente sì, dipende poi come consideriamo l'INPS, perché sai, dipende, certo. Se uno l'INPS poi prende la pensione, allora possiamo giustamente pensare che quel carico lì sia contributivo e quindi va bene, è giusto quello che dice. È una logica, certo. Se però qualcuno dice, ma chissà se mi daranno la pensione, oppure certo che la pensione non gli daranno, e quella diventa un'ulteriore pressione fiscale molto pesante che sposta di un altro 20-30% in più la pressione fiscale. La pressione reale. Già per la CGA di Mestre, questo 45 andrebbe rivisto al 50.2 come pressione fiscale reale. Comunque, insomma, sta di fatto che è molto alta. Ecco, questo non c'è dubbio. Allora, in questo libro ci sono tutti i trucchi ma legali per abbattere le tasse. Per esempio, cioè nell'inizio del libro c'è scritto: voi non lo sapete, ma comprando questo libro potete scaricare lo scontrino. Ecco. Teoricamente è possibile, perché comunque è un costo inerente per la propria impresa, perché di fatto io sto imparando un metodo per gestire meglio, perché se poi uno legge quel libro capisce che si può imparare come fare il controllo di gestione, come gestire meglio i propri numeri, come gestire meglio il proprio rapporto con il commercialista, e di conseguenza diventa un costo inerente per l'impresa e può essere dedotto dalle tasse. È la parola chiave per questa, commercialista, perché lei punta molto su questo. Come scegliere? Guarda che ci ascolta molti commercialisti, siamo alla radio. Ma infatti io volevo capire la figura del commercialista rispetto a quello che fa lei, Rosati. No, volevo capire le differenze, come si colloca. Ma è totalmente diverso, nel senso che quello che ho fatto io è proprio andare a se vogliamo, aprire uno spazio che si mette nel mezzo tra l'imprenditore e il commercialista, perché molto spesso l'imprenditore e il commercialista non comunicano, non sono in grado di comunicare per un motivo o per l'altro, perché uno magari è troppo tecnico, l'altro è troppo pane e salame, e ci vuole un po' anche un interprete che gli aiuti anche a creare un rapporto di partnership, perché poi il commercialista deve essere un alleato fondamentale per l'imprenditore in un paese dove, come abbiamo appena detto, c'è una pressione fiscale pazzesca, però se vediamo anche altre statistiche, altri report che sono usciti anche ultimamente, capiamo che non c'è questo rapporto. Sì. Devo subito rispondere a un ascoltatore, perché dice, vedi Veronica, caro Milan, come toccare il fondo? Ora vi mettete a dare giustificazione alla furbizia fiscale, vergogna. Ma è tutto legale, non c'è, ma quale furbizia fiscale? Stiamo parlando di detrazioni, deduzioni, cioè ci sta facendo capire Massini Rosati come legalmente si possono detrarre molte delle spese. Ecco, tutto qua. Cioè, utilizzare la normativa a proprio vantaggio. Questa, esatto. Poi è la norma. Ma tutta questa cosa nasce, giusto Rosati, perché lei era un imprenditore di partenza, e essendo imprenditore ha iniziato a pensare che i costi fiscali fossero eccessivamente onerosi, è questo l'iter, e da lì si è ingegnato. Cioè assolutamente sì, io prima ho studiato per me delle soluzioni che potessero essere adatte per me e per le mie aziende, e poi io tuttora sono un imprenditore, ovviamente utilizzo queste strategie, questa pianificazione per le mie aziende, e poi ho pensato a un certo punto di creare un corso perché magari potevo aiutare molti altri imprenditori in difficoltà sotto la pressione fiscale. Ecco, vogliamo dargli qualche suggerimento. Qualche suggerimento base, no? Alcune cose che proprio uno che ha un'impresa, la partita IVA o non sa e può fare già da oggi tutto in maniera legale. Ma guardi, ce ne sono veramente tantissimi. Uno che mi viene in mente, perché per esempio è veramente molto sottovalutato, riguarda per esempio i diritti d'autore o le royalties sui marchi. Probabilmente pochissimi sanno che in Italia le royalties sui marchi sono defiscalizzate. Quindi sicuramente, cioè, tutti gli ascoltatori che ci staranno ascoltando, tutti anni o tanti hanno un'azienda, ma magari pochissimi hanno registrato il marchio commerciale della propria azienda. Perché? Uno lo può... Cosa può fare se lo registra? Può registrarlo, per esempio, e poi concederlo in utilizzo all'azienda. Quindi fare questo gli permette di abbattere dell'imponibile per l'azienda e portarsi a casa un reddito che è ovviamente un reddito imponibile ai fini IRPEF, però non è imponibile ai fini IMSS. E quindi, come dicevamo prima, visto che l'IMSS molto spesso è considerato un'imposta, perché dal 20 al 30% lo mettiamo in quella cassa e chissà se ci daranno la pensione, posso subito andare a ridurre enormemente la pressione fiscale magari su quei compensi. Questa è interessante. Un'altra cosa che io avevo saputo è sulla questione del vestito, me l'aveva detto, sull'abito. Uno compra un abito magari per andare... Questa cosa proprio non ti dà pace, cioè praticamente tu hai deciso di andarti a comprare solo vestiti e andare a fare convegni. No, non è per quello. Si è fissato. Però tante volte uno, se compra un vestito perché gli serve per lavoro, per rappresentanza, per esempio, cosa può fare con di questo vestito? Beh, senz'altro può portarlo in deduzione a fini fiscali. Perché anche Nietzsche addirittura è stato anche suggellato questa cosa, io la dicevo in realtà da molto prima, ma c'è stata anche una sentenza della CTP di Milano, se non sbaglio era dell'anno scorso, proprio parlava di Belen e del fatto che lei portasse in deduzione gli abiti che utilizzava per i suoi spettacoli, e al 50% è permessa la deduzione di quegli abiti perché effettivamente li usava per andare in scena. Allo stesso modo, se lei va a fare un convegno e sul contratto del convegno le dicono che deve presentarsi abbigliato in un certo modo, e di conseguenza quell'abbigliamento dovrà anche acquistarlo, e se lo acquista diventa un costo inerente per l'attività di impresa e di conseguenza potrà essere dedotto dall'imponibile. Però Rosetti, mi faccia capire, Belen deve andare poi a fare, no, una conduzione, uno spettacolo, ma per esempio Milan, se mi viene qui vestito in radio, no, mi arriva con la sua giacchetta o con la camicia a fiori dell'altro giorno, quelle sono detraibili o non sono detraibili? Come funziona? È considerato temo un costume di scena? Di no. Sì, certo. Beh. Dai, io questo non so adesso cosa è scritto sul contratto di Milan. Dobbiamo studiare il contratto di Milan più tardi. Temo di no, temo di no. Io metto in allarme già qui l'amministrazione. Ma invece c'è un'altra cosa che ho letto che mi sembrava particolarmente così estrosa. Pare che si possano detrarre anche i regali alle amanti in qualche modo. Signori, voi state andando chiaramente su quelli che sono, come dire, i contenuti del corso più divertenti. Chiaramente, no, adesso c'è anche una parte di gioco che volevamo capire, però ci sono, questo fa capire la quantità di escamotaggio, no, che uno si può inventare. Perché si parlava di regali per le amanti? In che senso? Ovviamente quello è un aspetto estremamente borderline, anzi assolutamente anche da non fare. È un esempio però di quello che di come è fatta la normativa italiana. Io ho utilizzato degli esempi nel corso, quello che si trova online, ho utilizzato, come dire, degli esempi, alcuni totalmente leciti, altri che non sono leciti, proprio per far capire anche la differenza al fruitore, a chi studia il corso, la differenza tra le cose che si possono fare e le cose che si possono o si devono assolutamente evitare. E quindi questi esempi qua ovviamente stanno lì proprio per completare la panoramica. Ovviamente un punto fondamentale è questo, perché molti scrivono vabbè, ma alcune sono banalità, alcune sono cose che qualsiasi commercialista sa. Il problema è proprio questo, e so che Gianluca Massini Rosati vuole mettere il punto su questo aspetto. La scelta del commercialista è fondamentale. Perché? Perché non tutti sono, come dire, esperti di tutta la materia fiscale, oppure molti magari applicano a tutti i contribuenti dei trattamenti standard, possiamo chiamarli così, Massimo Rosati? Assolutamente sì, e questo è un grosso problema, e questo si rifà un po' anche al concetto di sviluppare la propria intelligenza fiscale, perché se io sviluppo la mia intelligenza fiscale posso anche capire qual è il professionista che può assistermi meglio, e potrebbe non essere uno solo quello che mi può assistere meglio, perché chi può essere specializzato di più in una materia, chi in un'altra. Ma faccio un esempio anche parallelo: se io ho un problema al ginocchio, non vado dal cardiologo, andrò dall'ortopedico. Allo stesso modo, se devo fare una fusione, magari il commercialista che ho sotto casa, quello che mi segue sempre, non è detto che sia il professionista migliore per me. Oppure se sto avviando un'altra attività, magari che ha degli introiti, dei ricavi dal web, tutto il web marketing segue anche delle normative fiscali che magari molti commercialisti è una materia complessa. Quindi lei dice che ci sono degli ambiti specifici, e focalizzandosi su quegli ambiti si possono individuare maggiori possibilità di non pagare delle tasse magari appunto non necessariamente previste, o che uno paga un po' per ignoranza sul tema. Assolutamente sì, tant'è che se vado a vedere, anche io ho un'azienda che si occupa di consulenza fiscale, lì ci sono un pool di 30 commercialisti diversi che hanno specializzazioni diverse e possono in questo modo andare a assistere la diversità di clienti che poi arrivano, perché non tutti hanno la stessa esigenza e non tutti possono essere trattati con una soluzione standard. Guardi, arriva allora, abbiamo anche una scala ascoltatrice. Spero di non svelare, non metterla in difficoltà. Ma forse nostra... potremmo fare il nome e cognome. No, la nostra amica Rossella Brescia, che ci ascolta, dice: ma perché solo al 50% i vestiti? A me servono, per esempio, Rossella Brescia, non so se lei la conosce, insomma, è una importante presentatrice, anche conduttrice, ballerina, insomma, una donna che dell'immagine fa un importante aspetto della sua vita. Ha bisogno forse di non scaricarlo al 50%, vorrebbe scaricarlo al 100%, al 70%, ecco, la solita Isuzu. Allora, il discorso è che il 50% è già stato, come dire, sdoganato e accertato, perché c'è tanto di sentenza di una commissione tributaria. Senz'altro la signora Brescia può anche scaricarli al 100% e poi eventualmente, se un domani arriverà un controllo dell'agenzia, discuterà con l'agenzia. Questa potrebbe essere l'alternativa. Però 50% abbiamo già una sentenza di una commissione che dice che si può fare. Perfetto, quindi bisogna rischiare. Il restante 50% Rossella lo darà a noi. No, comunque Gianluca Messini Rosati, per concludere, è anche un imprenditore, perché so che tra l'altro vive a Londra, lei le tasse le paga a Londra, quindi... Io le tasse le pago nei paesi dove sono, quindi dove le aziende italiane pagano le tasse in Italia, le aziende inglesi ovviamente pagano le tasse in Inghilterra. Io vivo a Londra da 3 anni ormai, quindi per scelte diverse, assolutamente non sono scelte di natura fiscale. Dillo, dica subito, sennò sarebbe andato dove? In Irlanda? O dove? In Lussemburgo? Se fossero scelte di natura fiscale, sarebbe andato magari in qualche bel paese al caldo, alle Bahamas, del Pacifico. Ma il lavoro da imprenditore è stato lasciato un po' in disparte, vista questa nuova branca che si è inventato, che è molto... Assolutamente no, io ho circa 150 persone che lavorano per me su diversi, non saprei, ormai ho perso il conto delle società che ho in settori diversi e in 5 paesi diversi. Questa qua che è nata, di fatto che è nata come un corso online, oggi effettivamente è un'azienda che ormai fa circa 3 milioni di euro l'anno di fatturato, quindi non è più un corso, una materia, ma è veramente un'azienda fatta di 30 commercialisti che ci lavorano dentro, 10 persone in ufficio, più le persone in amministrazione, più un centro di elaborazione dati, quindi insomma è un'azienda anche questa a tutti gli effetti, come altre che ho. Ma invece, Rosati, noi puntiamo a un corso di laurea in escapologia fiscale, ovviamente con numero chiuso, no? Assolutamente, noi facciamo le masterclass, non facciamo i corsi di laurea per il momento. Va bene, perfetto. Allora noi consigliamo, se volete, nel ringraziarlo, Gianluca Messini Rosati, il libro lo trovate ovviamente in libreria, Pagare meno tasse si può, tutti i consigli per alleggerire il tuo carico fiscale, Rizzoli Burr lo trovate in libreria. Grazie ovviamente Messini Rosati per averci raccontato in maniera funambolica come si possono pagare meno tasse. Quindi è vero che è lunedì, è vero che piove, è vero che ci sono le tasse, però è anche vero che se c'è un'intelligenza fiscale, dipende come guardi le cose, piove, non piove, tutto è relativo, no? Tutto è relativo. Ma ci sono i nostri ascoltatori che ci chiamano, Giovanni ci chiama da Ragusa, all'800 24 00 24. Giovanni. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Allora, stamattina mezza Ragusa in lutto, Alessandro. E come mai? È successo. Come mai? 4-1. Ah, vabbè, va bene, sì, ma che ve ne importa a Ragusa? Mamma mia, Giovanni. Siamo mezza Sicilia ti fa Milan, non lo sapevi, Veronica? Ma no, non lo sapevo, un altro trauma stamattina, già la giornata. Comunque, Veronica, nonostante che sei laziale, sei una persona meravigliosa. Grazie. Giovanni, poi dopo andiamo la mail per dopo ci scriviamo, questo. Giovanni. Ci voleva dire qualcosa allora, inerente ai temi? Un piccolo rimprovero a proposito dei due carabinieri, un piccolo rimprovero a voi giornalisti. Sì. Vi avete già reso colpevoli. Dove sono le prove? Io no. Veronica, non credo neanche, quindi noi parliamo per noi, io non ho... Non li abbiamo affatto reso colpevoli. Quello che ci limitiamo a commentare, Giovanni, è soltanto il fatto che uno dei due abbia parlato della ragazza consenziente. E siccome gli unici dati certi che abbiamo è il fatto che le ragazze avessero abusato di alcol e quindi non fossero in condizione di intendere e volere, e questo fa già sì che sia stato compiuto però, un reato, Giovanni, e che la violenza purtroppo rientra anche in tutte quelle situazioni in cui le persone non sono in condizione di difendersi. Si chiama minorata difesa. E in tutte quelle situazioni, purtroppo, a maggior ragione una persona che in quel momento veste i panni dello Stato perché è in divisa, è tenuta a proteggere la persona e non ad abusare di essa. Abusare significa anche, e in questo caso aspettiamo che il processo faccia il suo corso, ma anche qualora non ci fosse stata resistenza, una persona che non è in grado di reggersi in piedi per la quantità di alcol che ha ingerito, non è in grado di decidere, quindi non è consenziente. C'è da dire, la posizione del carabiniere oggi, se legge i giornali, Giovanni, è questa. Lui dice, lei era sobria, questa ovviamente è la versione dei carabinieri, e va confrontata con quello che succederà adesso. C'è da dire anche, Giovanni, che è un punto questo che nessuno ha toccato, che una macchina dei carabinieri non è un taxi che porta a casa delle persone. Se le porta a casa, evidentemente perché erano in una situazione di difficoltà. E soprattutto, quando anche fossero sobrie, perché non, come dire, lo verificheremo, le sembra normale che un carabiniere in servizio durante l'orario di servizio abbia un rapporto sessuale? questa, anche, no, solo, certo. Anche solo questa è una, come minimo è una violazione della consegna dell'ordine di servizio, cioè, oltretutto, no. Giovanni, uno degli aspetti molto sgradevoli è anche l'idea di abusare della divisa, che è una cosa che infatti l'Arma non ha tollerato, già ne hanno preso le distanze e non tollererà, perché la divisa in qualche modo è fatta, dà fiducia alle persone, le persone sentono di potersi affidare a coloro che sono i rappresentanti dello Stato. Infatti si sono affidate proprio a loro. È chiaro, in un momento in cui io sono in difficoltà, ho bevuto, ho fatto anche delle sciocchezze e non mi sento forte, decido di affidarmi a delle persone delle quali mi fido perché rappresentano l'istituzione. Se quelle persone tradiscono la mia fiducia, è doppiamente grave, non solo da un punto di vista penale, ma da un punto di vista etico. Ringraziamo Giovanni da Ragusa, c'è Lorenzo da Firenze, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica, Lorenzo. Spero, diciamo, faccio una piccola premessa, che sì, la mia testimonianza non mi tiri che qualcuno non mi tiri per la giacca. In un nessuno la tira per la giacca. Prego. No, beh. Dica, allora, io vivo a Firenze, di tanto in tanto vado in centro in giro e purtroppo mi ricollego anche un po' a quello che ha detto il sindaco Nardella. E Firenze è un po' Disneyland, nel senso che ci sono tantissime turiste e la consuetudine è vederle camminare con la bottiglia di vino o di superalcolico. Guarda, anche a Milano, se sabato veniva a fare un giro verso casa mia, attorno a via Padova, ne vede tante di ubriachi che girano, purtroppo, e quindi? Però tendenzialmente no, cioè nel senso che questa cosa fa parte un po' del decoro urbano, da parte anche, infatti, secondo me, delle forze dell'ordine, eccetera, dovrebbe essere limitata, perché è un oltraggio anche alla città, anche a Firenze, che è una bellissima città, vedere persone che si trascinano, che ciondolano con delle bottiglie. Va bene, Lorenzo. Risulta che, tra l'altro, nei loro paesi di origine spesso questa cosa non è consentita. Lorenzo, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del decoro, possiamo dire, vabbè, non è bello vedere gente ubriaca in giro, il problema è che qui è stato associato al passaggio successivo. È sufficiente, no? Non mescolare il tema del decoro urbano col tema della violenza sessuale, esatto, o dello stupro, esatto, che non sono minimamente collegati. Comunque chiamateci 800 24 0024. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo, avremo un'altra funambola, parliamo di scuola. Oggi è iniziata la scuola in gran parte d'Italia e altri temi, state con. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. Funamboli. I don't know much about my history. Facciamo un po' un salto nel tempo con questa. Noi siamo sempre un po' vintage. Ti piace vintage, cara vintage. Veronica? Alle 9:36 minuti sono tornati i funamboli. C'è Marco che ci chiama da Latina. Buongiorno, Marco. Buongiorno, buongiorno. Intanto complimenti alla trasmissione e soprattutto per messa una bella voce femminile, perché insomma la mattina ha bisogno anche di quello. Grazie. Grazie. Allora, io volevo intervenire su un discorso del tempo, nel senso che ieri è iniziato a piovere, quindi ho il tempo di fare il giro di casa, di mettere a posto chiudere le finestre, le serrande, togliere i panni, e si è allagato praticamente tutto. Parlo di, io abito al centro di Roma, e lì mi sono reso conto la potenza che c'ha il discorso a livello di acqua che scende. Quindi non mi rendo, cioè sono stanco di farmi prendere in giro dai politici che dicono la Raggi non ha fatto il lavoro suo, o chiunque altro sindaco. Come al Colosseo, che ci sono stato. Sì, erano quelli, loro erano quelli di sottomarino, cioè nel senso che poi. No, per dire che non è che ci sono buoni e cattivi in questo, cioè si strumentalizza da tutte le parti, però, Marco. Ma io, infatti, quello che farei, magari intervisterei, invece del politico, intervisterei lo scienziato, tra virgolette, turno, che mi deve spiegare com'è possibile che in 15 minuti ci si allaga. Ma lei è una persona, come dire, sensata, cioè non intervista giustamente un politico, certo, e non chiede a un politico perché piove tanto, magari chiede a un climatologo. Che è il discorso che facevamo all'inizio, che purtroppo la politica poi la fa da padrona su tutto e tutti gli argomenti vengono spostati lì, per cui ogni volta diventano le fazioni, tu sì, tu no, e gli argomenti vengono completamente lasciati in secondo piano. Ieri leggeva l'agenzia, dice pioveva tanto a Roma, il sindaco Raggi a un certo punto ha detto limitate gli spostamenti e sono partite le polemiche. Ma non è questione di stare né contro e pro Raggi, chi se ne frega, almeno per quel che riguarda me, chi se ne frega. C'erano le dichiarazioni la Raggi ha sottovalutato, no, questo sì, questo sì, no, sì. Ognuno che prendeva una posizione sulla pioggia, vi rendete conto, sulla pioggia. Vabbè. Cara Veronica, tu eri una che studiava tanto, una secchiona mi sa. No, non dirlo comunque, cioè è vero oppure no? Hai visto come svagheggiavo sull'argomento? Non me la vede, diciamo, effettivamente, ricurva sui libri. Un po' una via di mezzo. No, andavo bene a scuola, ecco, questo sì si può dire. Le versioni di greco erano il mio forte. Ah, però. No, perché è iniziata la scuola e tra le tantissime tematiche che il rientro della scuola comporta, abbiamo parlato anche la settimana scorsa un po' dei concorsi, eccetera, ce n'è una classica dibattuta da sempre. Che si inserisce nei drammi pioggia, tasse, lunedì. I compiti a casa, nello specifico. Per i genitori. Sì, no? Perché ormai li fanno i genitori, cioè anche i genitori, oltre ai loro figli. Vogliamo salutare Rita Vineis, buongiorno, è preside, buongiorno. Buongiorno. Salve Rita, buongiorno. A Biella l'anno scorso nella sua scuola in 13 classi è partita questa sperimentazione di non dare compiti a casa. Sai, lo sa meglio di noi che il tema è dibattuto. Sì, solo che messi in questi termini assume una caratteristica solo in parte vera, perché il nostro scopo non è non dare i compiti a casa. I compiti non vengono dati come conseguenza del modo di lavorare. Di un sistema didattico. Non siamo partiti dall'idea non diamo più compiti a casa, siamo partiti dall'idea rendiamo il lavoro a scuola più proficuo, più sereno, più tranquillo e vediamo di organizzare la giornata in modo tale che i bambini lavorando a scuola non hanno bisogno più di lavorare a casa. Anche per una ragione molto semplice, noi qui vale per la mia scuola, ma vale anche per altre scuole di Biella dove si sta facendo sto lavoro, non siamo le uniche. Sì, certo. No, infatti voi consolidate nel pomeriggio il lavoro della mattina, e così quando il bambino esce, pieno, la bambina, certo, avendo un tempo pieno, i bambini si fanno 8 ore a scuola, cioè un orario di fabbrica praticamente. Nessun operaio arriverebbe a casa portandosi un pezzo di lavoro, perché non ce la fa più. Certo. Ma quindi Rita, alla base di questo c'è anche l'idea di passare più tempo a scuola per non dover poi invece è il normale tempo pieno, quello che è stato istituito non so nemmeno più quanti anni fa, sì, e che adesso purtroppo viene in qualche modo eliminato. Però cioè la questione è proprio ridotto. Questa, preside, perché guardi, anche mio figlio che fa l'elementare esce alle 16:30, no, però ogni tanto, magari non sempre, soprattutto nel weekend, ha poi uno strascico di compiti da fare. Invece non lo so, quello diciamo che una cosa che si deve obbligatoriamente fare a casa è studiare, perché in classe diventa difficile, più andando avanti negli anni, classi, nelle prime classi c'è meno da studiare, ma più aumenta l'anno scolastico, più si deve studiare, lì lo si deve fare tranquilli da soli a casa propria, perché nel gruppo non si può più. Però fin tanto che i bambini sono piccolini, parliamo di elementari, e adesso tentiamo di sperimentare questo anche alle medie, vedremo come andrà, lavorando in particolare al mattino su una materia, su qualche cosa, e al pomeriggio facendo lavori di ampliamento su quell'argomento, su quella cosa, si può evitare, insistendo. Vabbè, ma come è andata? Come è andata finora? Cioè, i genitori saranno felici? Noi abbiamo avuto un anno così, e come è andata? I genitori sono soddisfatti, ma non perché i bambini non hanno i compiti. Beh, dai, un po' sì, sereni. Però c'è un aspetto importante, sono sereni, che questa scelta serve anche un po' ad aiutare quello che il modello sociale, no? L'idea anche della figura femminile, che è cambiata negli anni, e quindi le donne lavorano, le mamme non sono a casa, quindi è anche volto a cercare di adattare un po' la scuola a quello che è il nuovo modello di famiglia, no? Può essere, sì, a parte il fatto che io non facevo nessuna sperimentazione, ma 30 anni fa quando insegnavo avevo capito che mi conveniva fargli fare gli esercizi in classe e controllarli mentre li facevano, piuttosto che darglieli a casa e poi non sapere come venivano fatte queste cose. Certo. Quindi non è nemmeno che abbiamo scoperto chissà che cosa, abbiamo poi scoperto l'acqua calda, solo che c'è questa attenzione, e diciamo che quello che hanno verificato le maestre è che addirittura i bambini fanno storie quando devono stare a casa. Se il bambino è malato, ha la febbre, piange perché vuole andare perché a scuola. Vogliono venire a scuola. Vabbè, ma cos'è la scuola dell'utopia, dal mondo di utopia, professoressa? Da domani ci sarà un boom delle iscrizioni, cioè, si prepari. Tutti a Biella! Si tenga fortissimo perché... più posto. Vedi subito mani avanti. Effetti, è così, ma va. In realtà aiuta anche i bimbi che hanno più difficoltà, magari appunto disagiati, che hanno difficoltà ad essere aiutati dai genitori, ad essere seguiti. Anche perché nel modo di lavorare si dà molto spazio alla collaborazione fra i bambini, per cui si lavora molto a gruppi. In una classe, ad esempio, le maestre hanno l'abitudine di estrarre a sorte ogni mese il gruppo che si deve formare, quindi al tavolo i quattro banchi messi assieme che formano un unico tavolo e i bambini cambiano. Vabbè, così insomma, si aiutano sperimentazione nel lavorare, si aiutano. Pare che funzioni, secondo alcuni, secondo alcuni invece bisognerebbe studiare di più, però insomma. No, poi le volevo chiedere un'altra cosa che mi ha molto interessato, quella del macro argomento, cioè l'idea è quella di fare, ho letto, se mi dica se è giusto, di far fare un argomento per un paio di settimane, approfondito da tutte le varie, insomma, in tutte le varie formule, nelle varie discipline, in maniera tale che non ci sia la stratificazione delle conoscenze che poi vanno e vengono, dopo un po' uno se le dimentica. Vi racconto un esempio che mi è stato dato da una maestra, no? Ad esempio, partiamo da un argomento di storia, geografia o scienza o qualche diavolo è, ad esempio la montagna in geografia. Facendo matematica lavorano sulle altezze, introducono il concetto di misura di lunghezza e lavorano su... parliamo di elementari, sì, chiaro. Lavorano sulle operazioni tra le diverse altezze, in italiano, leggende, miti sulla montagna e quindi la comprensione del testo, però utilizzando questo argomento, analisi grammaticale e grammaticali o analisi logica sui testi che fanno e poi produzione personale, quindi il raccontino, la favola, il riassunto, qualche... quindi attorno al tema montagna fate un po' tutto, presa da tutte le angolature. Arte, si disegnano le montagne, noi qui siamo a Biella, montagne, basta che apriamo la finestra e le vediamo, quindi non abbiamo problema a copiare montagne. Musica e motoria, danze e musiche della montagna, anche qui canti della montagna e balli tradizionali della montagna ce ne sono a Iosa. Per scienze, come si sono formate le montagne. No, ma è chiaro, perché non ci faccio, perché sennò io mi sento già che alla fine arriva la pagella. Arriva la pagella alla fine della mattinata, altrimenti. Va bene, no, la ringraziamo e ci ha spiegato questo metodo innovativo di studiare, innovativo, insomma, molti perseguono questo metodo, per molti, devo dire, anche messaggi, è importante studiare a casa, avere compiti a casa, perché responsabilizza i ragazzi, quindi è un tema molto dibattuto, non è che c'è bianco o nero, ci sono versioni. Anche chi dice, ma mia mamma lavorava e poi mi ha sempre aiutato, sì, però qualora invece la mamma possa lavorare e poi tornare la sera a casa e magari passare del tempo insieme, non senza fare i compiti necessariamente, può anche essere un modo. Poi per alcuni è un modo, c'è chi piazza i figli davanti ai compiti, Leonardo Manetti a piazza al filo davanti alla PlayStation tutto il tempo e quindi vabbè, ma insomma sono scelte queste. Oh, Leonardo, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io gioco con mio figlio alla PlayStation e perdo sempre, mi arrabbio perché perdo sempre, sono inadatto alle PlayStation e ai videogiochi. Comunque, se vi comportate bene qui durante la mattinata, io non vi do i compiti a casa. Bene, andiamo a sentire il traffico, perché poi, se avete capito, c'è il funambolo terzo che si è aggiunto. Leonardo Manera. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta i funamboli. 1, 2, 3, 4. Caro Leonardo Manera, se la tua vita credi sia uno strazio, pensa al Milan con la Lazio, ci scrive un ascoltatore. Ieri è andata male, anch'io sono milanista e ieri ho sofferto, anch'io sono milanista, insomma ci è andata un po' male, cari Alessandra e Veronica. Però ci riprenderemo, perché le squadre... A me è andata bene, grazie. A te è andata bene, ma le squadre che soffrono a settembre-ottobre vengono fuori a marzo. Quindi faremo un bellissimo... il campionato è finito, praticamente. Faremo un bellissimo marzo. Gli ultimi saranno i primi, è quella storia lì, no? È questione di preparazione, cosa che tu non puoi capire perché sei non interessata al calcio. Purtroppo sarà il nostro mese. Va bene. Invece a me ieri è successa una cosa sgradevole, sono stato derubato in piscina. Ah, no. Sì, ero in piscina, avevo messo il mio giubbotto nel costume? nell'armadietto. E quando sono tornato ho aperto l'armadietto, che era stato richiuso col lucchetto, ma nel portafogli erano completamente spariti i soldi. Quindi, ma come hanno fatto ad aprire il lucchetto? Con una chiave, con un lucchetti molto semplice da aprire. Quindi un mese fa mi ha rubato la bicicletta, ieri mi ha rubato i soldi in piscina, però sono felice perché oggi cosa comincia? Oh, la scuola. Comincia il Grande Fratello VIP. So che tutti voi siete ansiosi di vedere stasera il Grande Fratello VIP, tra l'altro c'è anche un mio amico Gianluca Impastato che saluto. Spero che questa cosa gli porti visibilità e un po' di soldi, insomma, no? Ma tu Alessandro sei al Grande Fratello VIP, scusami. No, io no, ma ti devi ripagare del furto, non ho capito i soldi. Sì, sì, sì. Tutti fissi tu Alessandro per primo a guardare il Grande Fratello VIP. No, io non ammetto di no, ma non lo dico per essere snob. Non capisco perché snob. Tu non sia concorrente. Io non però, capacito. Poi oggi cominciano anche le scuole. Io ieri nella mia stanzetta, nella mia cameretta, mi sono messo a scrivere questa cosa sulla scuola, perché questa settimana comincia la scuola per i bambini che vanno in prima elementare, il primo incontro con la vita vera, col dovere, con l'obbligo di fare qualcosa. Dopo gli anni dell'asilo in cui la preoccupazione era solo giocare, adesso devono imparare a stare seduti, a leggere, a scrivere, anche se i metodi di insegnamento sono un po' cambiati. Quando ero bambino io, per imparare l'alfabeto si diceva A come amore, B come bacio, C come cane. Adesso si dice F come Facebook, I come Instagram, R come Rovazzi, cioè le cose che interessano i bambini. Però gli insegnanti hanno un compito più difficile di prima: far capire ai bambini che sapere i congiuntivi non è meno importante che avere tatuaggi ovunque e la tartaruga sulla pancia, anche se in effetti se dici i congiuntivi giusti poi è difficile che da grande ti prendano a fare Temptation Island. Quindi se dici i congiuntivi giusti ti precludi una possibilità di lavoro. Sicuramente però non si dice più F come famiglia, perché la famiglia è diventato un concetto talmente astratto che non è più definibile. Per un bambino è rarissimo ormai tornare a casa e trovare mamma e papà. È più facile trovare mamma e amico della mamma, papà e amica di papà, eventualmente tutti con prole precedente al seguito. Famiglie allargatissime dove in teoria si dovrebbero allargare i propri orizzonti, ma dove spesso si allarga solo la solitudine, ognuno nella propria cameretta a guardare il tablet o la TV. Per questo la scuola elementare è importante, perché in una società dei contorni così sfumati la scuola può ancora essere un punto di riferimento per i bambini, perché all'elementare ci sarà sempre una maestra d'italiano col mal di gola e un po' di raucedine per il continuo gridare. Ci sarà sempre una maestra calabrese che non ha perso l'accento anche se vive da 30 anni a Bolzano. E ci sarà sempre la bambina bionda con gli occhi azzurri di cui si innamorano tutti i maschietti ma hanno paura di dirglielo perché sono timidi. Soprattutto ci sarà sempre per i bambini il primo vero confronto con gli altri coetanei, col bambino che durante la ricreazione vuole decidere lui come giocare e se non gli danno ragione minaccia di andarsene, offesa, che da grande magari diventa un po' come Renzi, col bambino che vuole stare in banco solo con i bambini del suo quartiere, il piccolo Salvini, con quello che si applica ma non convince mai fino in fondo, il piccolo Di Maio, e con quello tranquillo tranquillo che va avanti perché in fondo non è antipatico nessuno, il piccolo Gentiloni. Siamo stati tutti in prima elementare, ognuno con la sua cartella, col suo zaino pieno di tutto, dalle merendine schiacciate a astucci gonfi come la pancia di un mastro birraio, coi pennarelli e le matite colorate con la punta che si spezza dentro al temperino, fino a quando di quella matita resta una frazione infinitesimale, un atomo, che il bambino continua ostinatamente a utilizzare per colorare. A un certo punto poi non colora più con la matita, colora direttamente col rosa della pelle. Invece a me, da genitore della prima elementare di mio figlio, resta il momento in cui lo vado a prendere e lo vedo da lontano, mentre a fine giornata corre verso di me per abbracciarmi, sghembo, storto, sudato, sgangherato, urlante, ma porta con sé un pezzo di vita così piena, nuova e densa, che quando lo prendo in braccio e lo accarezzo, anche il mio mal di schiena smette di lamentarsi e sorride, come se anch'io per un attimo tornassi in prima elementare. Il nostro Leonardo Manera, eccolo. Quanta qui. Poesia questa mattina. Un pochino. Sì. Dedicato al mio bambino, Beniamino, che anche lui domani comincia la scuola. Ma anche perché questa cosa, anche io ho sentito oggi in Lombardia iniziano domani. Ma io allora, dove li ho accompagnati questa mattina? Perché li ho accompagnati entrambi a scuola? I tuoi figli cominciano ad essere grandicelli, devi farti qualche domanda. Ho visto che non c'era tanta gente, no, ma vi assicuro, sono papà, lasciami qui. Dai, dobbiamo andare al giornale radio. Scriveteci a 349-238-6666. I funamboli tornano e rientriamo alle 10 con una grande sorpresa. Un funambolo in studio, un cantante che ci è venuto a trovare tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Ehi, cowboy, van giù a Milan con la cravatta e la giacchetta blu. Cercano i sogni de seconda man, cercano le donne che han visto alla TV. E allora giù, giù, giù, giù, giù, che se tiro un fadeco nella valle dei semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio è il ciapalmetro. Questi sono i funamboli, alle 10-8 minuti, vedete come abbiamo iniziato in maniera così funambolica. E lui è il primo ospite qui in carne ed ossa di funamboli. Ma come che no? Voce melodiosa. Adesso svegliamo tutto, alle 10-8 minuti, caro Leonardo Manera, è il momento, oggi fallo tu, è il momento di Davide Van der Sfroos. comunque doveva dire, è il momento del funambolo del giorno. Ah, ecco, non lo sapevo. Ci è venuto a trovare Davide Van der Sfroos, grande cantante, cantautore, scrittore che canta in laghe. E finché non cado dal filo, resto qui con voi. Oh, che bello! Allora, intanto dobbiamo dire canta in laghe. Perché, ma abbiamo un interprete? Sì, esatto, la nostra Veronica Gentili che ci viene a trovare da Roma. Spieghiamo tutto. Van der Sfroos è un grande cantante e cantautore, in realtà Davide Bernasconi, no? Nasce così, ma Van der Sfroos perché? L'hai spiegato mille volte ai nostri ascoltatori, anche la nostra Veronica Gentili, quelli che ci ascoltano dal po' in giù, ma lo sanno. Ma sì, alla fin dei conti, crescendo sul lago di Como, sul confine con la Svizzera, ascoltando per tutta l'infanzia e anche parte dell'adolescenza queste vicende legate al contrabbando, sia quello romantico, quello un po' più storico e anche quello un po' più triste, contrabbando di valuta, contrabbando di persone, tu cominci a parlare di una musica di frontiera, perché no? E qualcuno comincia a dire, in quel caso il tuo parrucchiere comincia a dire: ah, tutta una roba de Sfroos, di Frodo. Di Frodo, di Frodo. Auma, come si potrebbe dire, no? De Scundon. E allora è nato, il primo gruppo erano i de Sfroos e il nome d'arte era Davide Van der Sfroos, che voleva giocare un po' col fiammingo e che poi se l'è tirata dietro. Fossi olandese. Ma non solo tu. Non solo tu, è capitato più volte che c'è stato c'è il fiammingo qui al Premio Tenco, un certo Van der Sfroos. Quelli che si sono chiamati Neck, Raff e per dire, come non so io, i Pooh, sono stati molto più facili da scrivere, molto più facili da riportare anche dai giornalisti. Diciamo che questo nome, per l'amore di Dio, ci sono affezionato perché ha portato anche fortuna. Vuoi annunciare che cambi nome d'arte oggi? No, è troppo tardi. Ci ho provato, ma è troppo tardi. Mi hanno chiamato Bofrost, mi ha chiamato De Frost, Van de Brande Frotz. Perché comunque per me era semplice, perché sapevo cosa voleva dire, proprio perché è dialetto, no? Però è bello, io ho pensato a questa cosa, perché uno dice canto in dialetto e dice magari tutti non capiscono. Beh, perché magari molti non capiscono i Beatles, non capiscono i Rolling Stones. Quando si canta nelle lingue non è che i testi per forza devono essere capiti in tutte le parole. È bellissima la sonorità, no? Di quello che un giorno Finardi mi aveva detto, una serata allo Zelig tra l'altro, mi ricordo che Finardi aveva un complimento bellissimo, mi aveva detto: guarda, a me la musica contemporanea adesso, sti cantautori adesso, compreso le mie canzoni del passato, mi stanno tutte un po' sulle palle, a me piacciono quei musicisti che suonano con la chitarra con la prima corda scordata, che fanno metal, che ascolta mio figlio, a te ti va ancora di culo, mi ha detto, perché canti quella roba lì, quella lingua lì che non capisce un cazzo nessuno, e poi c'hai la fortuna che quelle due o tre che hai cantato in italiano sono talmente incasinate che non capisce niente lo stesso. Beh, poi comunque l'importante, credo, anche nella musica è essere identificabili, no? Perché magari ci sono tantissimi che magari tecnicamente sono perfetti, però sono molto simili uno all'altro, invece nella musica... Guarda, hai ragione, però capiamo benissimo che non c'è una strategia di marketing dietro a questa cosa del campare in dialetto, altrimenti saresti un manager già rincoglionito in partenza, perché come mai vai a fare una cosa che potrebbe essere un qualcosa che rallenta, che crea timore del fatto che gli altri non capiscono? È già difficile vendere un disco, fare ascoltare le proprie canzoni cantandole in modo chiaro. Quindi vuol dire che qualcosa è successo, probabilmente una passione, una cosa che hai sentito dentro ancora prima del dire devo far sì che tutto si allinei a ciò, cioè, che è trend in questo momento. Ma tu hai sempre cantato in laghe? No, all'inizio come tutti ascoltavo le radio, cantavo quello che sentivo, a volte anche in un inglese maccheronico, quasi un gremlò. Come certe cose di Celentano, come certe cose di Dario Fo, perché non capivo assolutamente cosa dicessero le canzoni e io ci aggiungevo così del mio, mescolavo e facevo. Poi il primo gruppo che erano i Potage, questo gruppo post wave si definivano, perché c'era di mezzo un po' il punk mescolato però anche al beat italiano di Caterina Caselli e roba del genere, e lì io cantavo in inglese, in italiano, italianizzavamo canzoni dei Clash o dei Sex Pistols. Ah beh, hai capito, la canzone dei Sex Pistols, Anarchy in UK, quando comincia I am an antichrist, I am an anarchista. Allora io ero al parco del paese, cantavo, avevo 16 anni con l'ant ancora un po', tutto con le... sì, ma era una cosa c'è stata, ma io ho cercato la foto, ma qualcuno ce l'avrà. Avevo le scarpe da ginnastica arancioni, questi collant, non collant, erano i calzoni quelli di una nota marca dell'epoca, a strisce okay, marinaio, ma era una cosa inquietante vedere uno col lucchetto al collo come Sid Vicious, e cantavo in italiano, cantavo io sono l'anticristo, l'anarchico, io sono, non so cosa voglio ma lo voglio adesso, e questi pensionati dicevano, i pensionati gli dicevano cosa ha detto, che ma la dica lei l'anticristo, ma le me al figlio della Fernanda, c'era una roba, c'è l'inquietudine della Fernanda. Comunque con Davide Van de Sfros, che ricordiamo 6 album inediti, 2 premio Tenco, è andata a Sanremo, non lo vedrete mai X Factor, ecco, c'è questa cosa della della questa musica. È una cosa infatti che anch'io volevo capire. Tu dicevi che non faresti mai il giudice lì, ma cos'è, un fatto di snobismo? Ma per l'amor di Dio, soffro d'ansia e sono come una sorta, capito, di ma non sei tu che canti, tu ma io subisco molto questi sogni magari che vengono infranti, queste cose, mi viene l'ansia quando li vedo in televisione, che sono staccato. Io penso, quando sono andato a Sanremo mi dicevano tutti stai attento perché lì c'è questa tensione, tremano le gambe anche i grandi. Sì, è vero che c'è un po' di tensione, ma erano anche gli unici 3 minuti in cui nessuno ti rompeva le palle con domande, cuffie, come noi adesso. E quindi sono stato abbastanza saldo in quei giorni, ma quando ho scritto la canzone per Irene Fornaciari, la guardavo da casa, io stavo malissimo. Io tremavo, dovevo prendere anche dei pezzettini di pastiglia. Infatti stavo dicendo, quella è un'ottima soluzione, Sanremo. Facciamo così, perché dobbiamo andare un attimo alle informazioni sul traffico. Siamo con Davide Van de Sfros, che è il nostro funambolo del giorno, ci racconterà ancora tante cose. State qui, Scusami, oggi il traffico è in laghe. È in laghe. Sì, non lo sapeva quella del traffico o quello del traffico collegato. Lo ascolterete in dialetto adesso, A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta... I funamboli! Pulenta e galena fregia, e un fantasma in sulla veranda, Barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot. Duma la radio sgraffigna l'aria e i pensè fanno un gran casot. Sculta il vent che pica la porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta, e il disco è cadente, un bel regal. Mi sa che è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeggiano in sul muri sotto in del cassette. Ganso i vestiti, quan se ripenen, ne vani ne fegnen, punta il bucer del vent. Andes Frost qui negli studi di Radio 24. Beh, insomma, vedendoti suonare qui dal vivo, l'impressione proprio della musica, no? Un po' meno sì. Sceneggiatura come quella che c'è nei Talent, che insomma è molta sceneggiatura, invece musica e canto vero. Ma io nei Talent ho guardato molte volte l'aspetto della preparazione musicale, artistica di questi ragazzi, a volte giovanissimi, e sono rimasto sempre scioccato. Questo ci dimostra di quanta musica viene ascoltata, praticata, e in questo periodo, anche perché è più facile, anche incisa e offerta all'ascolto di chiunque in modo assolutamente semiprofessionale, sì. O quasi, insomma. Quello che mi fa stare male tante volte magari è l'eccessiva durezza che il tipo di format televisivo e appunto la sceneggiatura, la costruzione. Anche con MasterChef è bruttino, perché tante volte vai, togliti il grembiule, c'è schifo, questo non lo mangerei neanche quando sono ma la TV, dopo magari si sono messi da come il wrestling, no? Magari si mettono d'accordo prima, però sta di fatto che i colpi si prendono. Ma questo è il bello, io dico sempre, quando parlo anche ai ragazzi, dico della radio, faccio questo esempio: la radio è vera e la TV è finta, che non vuol dire sminuire il valore della TV, ma in radio la radio è proprio, c'è questa magia del racconto, della voce, il suono di Davide Van de Svoort, la sua voce, no? Le sue parole che arrivano rispetto alla TV. E la TV è finta in che senso? È finta perché quello che ci ha detto lui, adesso si mettono insieme, no, rifacciamo la scena, ma no, rifacciamola meglio, ma tu devi dire così, c'è tutta una sceneggiatura, c'è dici tutto, la diretta rispetto al mettersi d'accordo. No, c'è una grande sceneggiatura, cioè, costruzione. Stai portando acqua al tuo mulino, insomma. No, ma non lo dico per sputare sulla TV, per carità. Allora, ci scrive un ascoltatore da Varese: grande Davide, quest'estate ero anch'io a San Siro, ma né per il Milan, meglio, visto, né per l'Inter, perché Davide Van de Svoort ha fatto anche un grande concerto a San Siro, che è un po' il sogno di tutti i cantautori, di tutti i cantanti, insomma, San Siro riempito da... E anche lì è stato un passaggio funambolico, perché per sei mesi sei lì che cerchi di di non cadere né da una parte né dall'altra. Tu quando hai saputo la notizia del concerto? L'ho avete saputo deciso? Prima delle feste natalizie, quindi c'era già l'ansia prima del panettone, quindi poi è andata bene, c'erano 20.000 persone per il nostro target, ovviamente è stata una prova più che soddisfacente, perché poi tutto questo effetto visto in un campo così grande, visto poi in un tempio della musica, ricordiamoci anche che era il primo concerto della stagione, c'erano tensioni per ovvi motivi, perché si arrivava anche da quel periodo molto, molto lì c'è la cosa che dici della porta, no, che non che hai sfondato una porta. Io invece ho provato a dare una spallata, non l'ho sfondata la porta, ma un varco l'ho creato e non mi sono neppure fatto male. È ovvio che se Davide Van de Svoort a San Siro, non è Tiziano Ferro che va a San Siro o Vasco, certo. I quali possono farne anche tre di fila e lo riempiono. Vuol dire proprio che porti un tipo di canzone, un tipo di mondo a fare un giro su di un podio, su dentro ad un tempio dove normalmente non ci si prova nemmeno ad entrare. Dare una spallata vuol dire... speriamo, perché magari un'altra volta qualcun altro anche, invece di 20 ne fa 30, e così si sfondano queste porte dell'ovvio, dove chi fa una cosa deve rimanere nascosto lì. Tra l'altro, invece, 23 settembre c'è un altro importante concerto, alle 21 all'Open Air Theater di Experience Milano, torni in scena. Sì, questo è un po' come dire la chiusura dell'estate, un'estate che è stata l'insegna di questo concerto. Praticamente dove c'era l'Expo 2015. E quindi è un ritorno in area Expo, dove abbiamo avuto modo di far suonare anche tanti gruppi, e con me c'erano i Tazenda quella volta, ci sono stati tanti gruppi che mi hanno accompagnato e che mi accompagnano tuttora, e ci fu anche il grande Nanni Svampa, che ovviamente in questa occasione verrà ricordato proprio lì in Milano all'Expo, perché è scomparso da poco, e ha condiviso con me palchi, situazioni. E sono curioso per sapere come andava a scuola Van de Svoort. Oggi ti è presa così, non so, oggi iniziano le scuole, mi dà l'idea. A te, Veronica, non ti vedo ricurva sui libri, secondo me anche Van de Svoort. Ma perché? Guarda la gobba. Te lo racconto proprio in modo outing. Sì, outing. Allora, ci cominciamo. Questo è il propedeutico al defurbizziamoci, santuaria di confessione. Cerchiamo di stare nei tempi, di non andare oltre. Allora, elementari buone, buone, vabbè. Comunque sia discalculico, tuttora incapace di fare dei conti più complicati delle tabelline che sei a memoria. Impossibile per me guardare una tomba e capire questi scherzetti ti ha detto per favore, già gli viene l'ansia. Le tabelline ha detto che le sapeva. Ha detto che gli viene l'ansia. All'epoca le sapevo. Cioè, i miei figli, Davide e papà, assolutamente non aiutarli a fare matematica. Ecco, a proposito dei compiti a casa, papà non aiuta a fare E poi, vabbè, l'elementare. Invece con i temi, materie letterarie, quello a livelli altissimi, anche alle medie, dove però c'era un baratro. Odiavo musica, l'ora di musica per me era un trauma, odiavo le notte, non le so tuttora, sempre perché aveva un qualcosa di matematico. Qualcosa di... Tu sai leggere la musica assolutamente adesso? Assolutamente no, un analfabeta totale dal punto di vista musicale, e quindi sono rimasto un po' nel mio mondo pseudo sciamanico oppure un po' variopinto. Alle superiori è cominciato il disastro, perché fare un liceo classico andando bene solo in italiano vuol dire poi avere un crollo in greco latino. Ma invece a San Siro tu hai fatto un'altra iniziativa bella, che dare spazio invece alla classica band di supporto dei gruppi di ragazzi giovani, no? Sì, c'è stata questa ulteriore grande sfida che con la campagna Cresciuto in Oratorio, di cui ha fatto parte anche Angelo. Giacomo Poretti, c'era Beppe Bergomi e così via. Io ho detto: ragazzi, chi mi manda, mandatemi dei demo, e a tre gruppi farò aprire il concerto di San Siro. Ma è gruppi bello, che devono essere testati, che sono giovani, che sono dell'oratorio. Anche perché era San Siro. E quindi, sì, ma sono stati dei draghi, sono saliti sul palco, mi hanno insegnato molto, perché prima del concerto un po' di tensione ovviamente c'è. L'ultima settimana è stata molto faticosa, perché in quel momento lì non vedi l'ora di salire e di cominciare, perché l'attesa dopo un po' non ce la fai più. Loro sono saliti sul palco e pensavano esclusivamente alla gioia e al divertimento. E due note per i giovani. I giovani che iniziano oggi l'anno scolastico, comunque i giovani che si buttano nella musica, i giovani che sono poi il futuro del paese, che canzone che potresti incoraggiamento dedicare loro? L'incoraggiamento. Io di solito canto quella canzone che è La macchina del zio Tony, che parla di quando si è ragazzi sulla macchina, quella abbandonata nel pollaio, che lì tu fingi di guidare verso questo futuro, no? Cerchi di farti tutte le tue proiezioni, poi diventi davvero magari quello che volevi, ma scopri che hai nostalgia di quando eri seduto sul sedile, no? Grazie per avermi fatto il libretto come all'opera, perché sennò io non capisco. Vai, adesso ascolto. Sulla macchina del zio Tony, senza tesh né cupertoni, vulvulan che se destaca, qui cu sen de pel de vaca, parcheggiadan del fienil, cui galeni in sel sedil, na un gio ascoltai cassette, giornalitti piede tet. Ada come balibè, con ti anfibi e la cresta, la barbetta de rasta, e i top sul giubbet, su un terre della zocca de l'oli, e che in mezzo alla pista me par che me basta tutto quel che go. E chissà, giù in fondo al bra, che vita me specia quando verti il cancel, e che strada farò, e che macchina lustra, e che cilindrata. E chissà, puntini il futuro sul chissà. Sedile qui di fianco chi si siederà, no? Sul sedile che di fianco chi si siederà giù, perché come dire, poi avrò una moglie, avrò dei figli, avrò qualcuno, come no? Tutte queste proiezioni, i ragazzi oggi come oggi non sono capito, anche loro non sono come parte di quel magma che normalmente viene timbrato con un inchiostro tristissimo, come dire che hanno una vitalità, come dire che uno svizzero è solo cioccolato, orologio, cucù, questi stereotipi. E i ragazzi di oggi non fanno, non sanno, non dicono. No, i ragazzi di oggi hanno le palle prismatiche, neanche quadrate, perché ereditano tutto un mondo, una difficoltà, anche uno stress, complesso, incerto. E sono capaci. Qualunque sia l'oggi, si tende sempre a dire che i ragazzi di oggi sono in qualche modo. Io ai miei tempi, perché i ragazzi di allora. Però Davide Van der Sfors, che sta con noi fino alla chiusura, adesso avremo, no, non è che ci siamo dimenticati la campagna dei furbizziamo, cioè anche lui ci racconterà qualcosa, però la domanda te la dobbiamo fare. Tanto Davide Van der Sfors, quando va in giro, dicono: no, basta, non ne posso più sta storia del dialetto che mi associano alla politica. È vero, però c'è stato un momento in cui si dice: allora se canta in dialetto fa parte di un determinato schieramento politico. Però scusami, no. Davide ha suonato da tutte le parti, certo, ha suonato per quelli, infatti, del PD, per la Meloni, per la Lega, non lo so, per della politica, cioè, che pensi? Di... Io lo sanno ormai tutti, cioè, ho cercato di creare un'isola, lo so che poi può sembrare difficile, c'è prurito, c'è fastidio nel momento in cui ti tirano la non giacca, ti schieri, la felpa. Più che la paura che tu ti schieri, cioè però non ti schieri, non mi schiero perché non sono sicuro. Io ho sempre detto, ho una visione della politica traumatica, perché io sono cresciuto ed ero proprio bambino, andavo forse in prima o in seconda elementare, e vicino alla porta di casa mia c'è il cancello dove venne fucilato Mussolini, c'è proprio Mussolini e la Petacci furono uccisi, certo, lì. Dormì l'ultima notte a Mezzegra, e la storia sa che morì a Giulino di Mezzegra. Io da bambino vedevo queste squadre notturne, sia di una parte sia dell'altra, vedevo legnate, catenate, avevo già un'immagine della politica molto, abbastanza molto dolorosa e conflittuale. Nel tempo ci ho provato, sono andato a cercare, ma non ho trovato pace, non ho trovato requie, l'ho trovata in altre cose, ma non nella politica. Quindi ho cercato di mettere le mie canzoni a disposizione di tutti e di cercare di continuare, a costo di prendere anche qualche legnata, qualche battosta, di stare anche molto male, perché quando costruisci un intero disco, magari di 14-15 brani, che cerca di parlare in modo assolutamente libero di tutto quanto, e tutto finisce sempre al fatto che ti hanno visto nella tal trasmissione, piuttosto diventi, è triste. Ma guarda, Davide, però, abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che la politica si è divisa oggi sulla pioggia, voglio dire, schiera sulla pioggia, però, io capisco che questa cosa è comprensibile, perché sono delle persone che hanno molto più fastidio per un personaggio politico che affetto per me, e quindi nel momento in cui mi associano, dicono, per esempio, il fatto che tu abbia chiaramente raccontato una provincia, che abbia scelto un dialetto, ti lega un po' nell'immaginario, immagino, anche ad una specie di idea di federalismo, no? Di un'identità federale. Tu di questo che pensi, per esempio? Io sono molto legato a un'idea territoriale di quello che mi appartiene. Sono sempre stato schierato per il territorio, per le sue storie, per tutto quanto, ma anche quello d'Italia, perché sono sceso quante volte, qui vedete la bandiera della Sardegna, questa è quella dell'Irpinia sulla chitarra, è vero, ce l'ha la bandiera dell'Irpinia, quindi ci sono tutte queste. Io mi sento fortemente legato ad un'italianità, non riesco ad essere così politico in questo senso, perché vengono prima troppe altre cose, sì, tra l'altro. Però nel momento in cui sono lì e sto facendo delle cose per una mia Lombardia, per delle culture, per delle tradizioni, o sto cercando di ricordare anche come eravamo, non mi piace che venga messo l'ombrello dentro i raggi della bicicletta dicendo ABC. Allora tu sei. Allora, facciamo così: dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ci sono le borse, le informazioni, ma siamo con Davide Van der Sfors, che rimane con noi fino alle 11. Poi faremo il defurbizziamo. Ci vuoi mandarci in pubblicità con uno zic? Lo chiamo così? Con un voglio. Andate tutti quanti in pubblicità. I funamboli. You ain't nothing but a hound dog. The crying time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Alle 10:37 minuti, tra l'altro siamo in diretta Facebook, lo ricordiamo, anche sul nostro canale I Funamboli e sulla pagina di Radio 24. Siamo con Davide Van der Sfors, che è venuto a trovarci. Questa non è musica popolare, Davide. Questa è il baricentro, è il baricentro del funambolo. Con questa non cadi più. Qui devi stare fix point. Con questa non cadi più, ragazzi. Questa però è più globale di questa, di musica non ce n'è, non ce n'è. Allora, caro Davide, ti Chissà se a Elvis Presley chiedevano per che partito votava. Forse esatto. Sì, no? Beh, andava... Lì sono due, sai, è un po' più facile, no? Ma chi se ne frega alla fine per che partito vota? Se va a portare, no, le proprie canzoni, la propria musica, i propri testi, come diceva prima Davide. Sì, perché nei testi c'è tutto. Cioè, tu, quello che tu canti è nella canzone. Se canti uno slogan, ovviamente stai là. Se canti invece canzoni che devono essere proprio la portata di tutti, ecco perché sotto il palco vedi il bambino, vedi suo padre, vedi anche suo nonno, perché tu ti stai rivolgendo alla gente. Tra l'altro, come ci diceva Veronica, che è di Roma, era tutta preoccupata, dice ma capirò quello che... Ma in realtà dice Davide va anche a Roma, eh. No, ma stavamo parlando adesso di questo, infatti. Vabbè, che spesso anche a Roma, Veronica. Che hai capito? Scusate, poi mi deconcentro. Diceva infatti che ha una simpatia e che apprezza Mannarino, che è un cantautore romano, con il quale appunto che ha scritto di lui, ha scritto del suo disco, e c'è una reciprocità, giusto? Sì, no, io lo ammiro molto, ascolto la sua musica, anche a casa i miei figli l'ascoltano. Lui fece una cosa, non mi ricordo su che giornale, ma era una rubrica dove un artista doveva fare una recensione di un disco di un collega, e io mi ritrovai questa recensione di Mannarino, che all'epoca non conoscevo ancora, che aveva analizzato il mio disco, mi sembra fosse Yanez, in un modo talmente poetico e talmente anche coraggioso che nessun altro giornalista di quell'epoca aveva fatto, una cosa che nessuno aveva fatto. Quando lo incontrai ad Aosta in occasione di una cosa che facevamo, c'era anche Max Gazzè e compagnia bella, certo. Abbiamo avuto modo di incontrarci, e io lo ammiro molto, perché ben oltre le identità locali, anzi proprio. Però questo è un momento importante qui ai Funamboli, perché è arrivato il momento, caro Ale. È arrivato il momento. Oggi forse facciamo fare la sigla. La nostra campagna, caro Davide, è defurbizziamoci. Abbiamo una sigla, ma se tu vuoi ce la puoi fare tu. Defurbizziamoci. Se te sed me a tambalos, te cum ve mulaggio los, altrimenti se fet mal, e te borleggio del fil. Hai visto anche quando gliel'hai chiesto, lui per un attimo ha pensato, si è visto nei suoi occhi, ma cosa cavolo mi stanno chiedendo sti maledetti. Io banalmente chiedevo la sigla defurbizziamoci. Tu chiedevi una nota, uno stacchetto. Defurbizziamoci. Defurbizziamoci. Scusate, io questi ultimi concetti non li ho proprio capiti, però non vabbè, è grave, vabbè. No? Comunque è il momento in cui i nostri ascoltatori, chiamandoci all'800240024 oppure via mail funamboli@radio24.it o ancora via WhatsApp al 349-238-6666, svelano la volta in cui hanno fatto i furbi, un po' vergognandosene anche, non lo so. C'è Giuseppe che è con noi, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Eccolo buongiorno. Qua. Che hai combinato nella vita, Giuseppe? Nella vita tante. No, vabbè, ma è quello per cui... Nella vita tante? Nella già. Vita no, questo è un episodio che risale al 1994, quindi... Ma fin di bene, poi. Eccola, subito metto le mani avanti tutte. E la musica di Elvis Presley riprendeva un po' quello che poteva essere questa burla che poi è stata così concordata con un carissimo amico di nome Domenico. Fissati un po' per gli Stati Uniti... Eravamo già fatto un viaggio nel 1992, abbiamo replicato con un altro amico nel 94, lasciando fuori questo mio amico Domenico, il quale non se ne dava pace, perché il mito americano di fare certo. Il cost to cost. Sì. E allora che abbiamo combinato? Questo mio amico era specializzato in chirurgia a Roma e abbiamo inventato una fantomatica società che gli spediva un invito ad un forum a Washington D.C. Ma cioè, perché? Ma, proprio... non ma perché? Non ho capito perché non poteva venire lui, cioè perché avete dovuto... Sarebbe stato complicato spiegare ai genitori l'ennesimo viaggio negli Stati Uniti. Ecco. L'ennesimo viaggio. L'ennesimo viaggio, sì. Quindi avete inventato questo invito assolutamente irrinunciabile di una società americana al che è partito con voi. Irrinunciabile, poi è partito ovviamente tramite sempre la complicità di una carissima amica che si trova a Milano, quindi proprio dalla sede principale di questa società che esisteva. Nel 94 internet ancora non era utilizzato soprattutto da genitori che a tutt'oggi non sanno di quello che è accaduto. Beh, questo lo dici tu fino a stamattina alle 10.40. Beh, adesso vediamo. Non abbiamo detto, noi diciamo sempre solo il nome, Giuseppe. Anzi, Giuseppe. Ne andavano orgogliosi, hanno detto il nostro figlio è stato invitato, no? Quindi un motivo di vanto. Vabbè, no. Insomma, quindi l'avete portato, beh, a fin di bene sì, perché dai, vero, avete fatto un bel viaggio insieme. Un tempo i genitori non potevano controllare su internet cosa fosse questa cosa, adesso vi sgamavano in 2 minuti e mezzo. Esatto, vabbè, è andata bene poi Giuseppe, niente. Ma è andata benissimo perché noi siamo comunque, io e il mio amico Riccardo siamo sbarcati a Miami, il domenico, dall'invito che aveva, tra parentesi, i genitori, visto di quell'importanza dell'evento, gliel'hanno pure pagato. Oh, quindi, la cosa più bella di tutto è stata questa, e ci siamo raccordati a Miami in tarda serata tra le risate. Beh, insomma, Giuseppe, no, ti ringraziamo tantissimo, visto che hai fatto questa confezione. Ora la chiediamo anche a Davide, qui a Davide Van des Frost. Però tu, Giuseppe, sei stato defurbizzato. Ecco, sei pulito, Giuseppe, ora, ora sei vediamo pulito. Se possiamo dare questa patente di defurbizzato. Vediamo. Anche a Davide Van des Frost. Questa è fantastica perché è successa veramente, non potrei inventare. Beh, certo, non devi inventare, devi raccontare. Ero una cosa. Studente a Como, sì. Amavo già la poesia e in un grande magazzino trovai I fiori del male di Charles Baudelaire, che io lo volevo tanto e avevo paura che poi, siccome non avevo soldi quel giorno, qualcun altro lo comprasse, perché era anche così, andava molto. Insomma, lo so che poi lo trovi, ma lì c'era la versione che volevo io. E allora ho preso il libro, l'ho sottolineato tutto con una matita che aveva un cartella anche, ma con come? L'evidenziatore, l'ho messo nella borsa, così se mi fermavano dicevo: è mio, come posso aver rubato? Vedi, anche sottolineato. Certo. Nessuno mi ha fermato, sono arrivato a casa, ho cominciato a leggerlo, ma di notte avevo gli incubi. Vedevo Baudelaire che mi diceva: bastardo, non hai pagato la mia. Il giorno dopo cosa ho fatto? Sono entrato sempre nel magazzino. Questo libro è posseduto. Ho messo il libro lì, ma non potevo lasciarlo lì perché ha sottolineato. Certo. Vabbè, sono andato un po' nel reparto dell'altra, come dire, quello, matite, queste cose. Poi sono arrivato lì, questo qua lo comprerò. E lì l'ho comprato e l'ho pagato. Quindi ho preso due volte lo stesso libro, una volta pagandolo, l'altra restituendolo e riacquistandolo. Cioè praticamente legalmente. ti sei furbizzato e defurbizzato. Autopunito, sensi di colpa, uno sfacelo. E il giorno dopo sognavo Baudelaire che mi diceva: sei un coglione, dovevi tenerlo. Cioè, sogni sempre Baudelaire. Da quel momento prendi il tuo superiore Baudelaire. No, è diventato Arthur Rimbaud perché però allora, possiamo dire che anche Davide è stato defurbizzato. Ma sì, dai, la patente anche a lui. Allora scriveteci 349-238-6666, raccontateci quella volta in cui avete fatto i furbi. Dobbiamo andare al traffico ancora, che ci riannuncerà Davide Van des Frost in Laghe. E poi c'è un personaggio che ci è venuto a ritrovare, è il direttore dello Zerbino. Traffico ad Argenis, Lac de Combe, le venite a Giona Frana, la strada le va momentaneamente, lavori in corso, le blucada, però traffico alterno, la cua per Adesla Gemenga. Buon viaggio a tutti. Mi sa che vado a piedi. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta I Funamboli. Gas. E la gente che correva e ridava insieme a noi. Siamo tutto quel che pensavo è solamente amore ed unità per noi, che meritiamo un'altra vita. Cioè, non so se vi rendete conto. Più giusta e libera se vuoi. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci. Cioè Davide Van des Frost è arrivato qui da 20 minuti, è entrato in Laghe e ha conosciuto Veronica Gentili e ora è tornato all'italiano e canta. Scusate, Venditti. È stato un c'è attimo. Sintonia, hai visto che tra Veronica e Davide sta succedendo qualcosa. Sta succedendo qualcosa. C'è feeling. Cioè, quella eravamo in diretta. Allora, però attenzione, perché qui ci è venuto a ritrovare un funambolo, un personaggio che abbiamo avuto anche la scorsa settimana, diamo nuovamente il buongiorno e ben ritrovata Guido Baldo, che tra l'altro ha fondato dallo Zerbino, io ho detto, mi pare un nuovo settimanale, no? Sì, è un settimanale che si chiama, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, che si chiama L'Epilogo. Ah, L'Epilogo. Come hai questo nome? Perché epilogo vuol dire conclusione, perciò può essere interpretato in vari modi, conclusione dell'Italia, dell'Europa oppure del mondo intero, comunque sempre con un certo ottimismo. Diciamo, caro Milan. Allora, si parla molto degli... Faccia la sua domanda, sì, caro Milan. Le faccio una domanda. Lei che è un giornalista così preparato, bravo, Si parla molto dei vaccini, sì, no? Ha sentito le posizioni free vax, lei che pensa di questi no-vax? Dei no-vax, ecco, no-vax. Ma che sono bravi i no-vax, quelli che non vogliono i vaccini, perché hanno scoperto che i farmaci hanno anche degli effetti collaterali, una cosa che senza di loro non avremmo mai sospettato. Bravi no-vax. Per esempio, io non avrei mai sospettato che quel bruciore di stomaco che mi viene talvolta dopo aver preso un antinfiammatorio potesse derivare dall'antinfiammatorio. Pensavo che derivasse da qualche costellazione astrale sconosciuta. Quindi bravi no-vax, mi hanno fatto scoprire gli effetti collaterali dei farmaci, sono bravi. Adesso io le voglio citare così a memoria i possibili effetti collaterali di un antinfiammatorio molto comune, che sono mal di testa, nevralgia, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsione, atassia, anemia megaloblastica, alterazione del metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, morte. E questo è solo un antinfiammatorio, quindi a naso. Mi viene da pensare che anche i vaccini possono avere qualche effetto collaterale, però bravi. Novax me lo hanno fatto notare, bravi. Che prima, caro Milan, pensavo che in quei fogli corposi che ci sono nelle scatole dei farmaci ci fossero delle parole a caso e che venissero inserite nelle scatole stesse senza motivo da qualche lobby che vuole disboscare l'Amazzonia. E invece no, bravi Novax, anche perché hanno capito che nel mondo siamo troppi, 7 miliardi, e allora hanno capito che è arrivato il momento di smaltire un po' di queste persone in eccesso. E allora smettere di vaccinarsi può essere un buon modo per ridurre il numero persone, dare a quelle che restano la possibilità di avere più spazio, di vivere meglio, una specie di selezione darwiniana. Bravi. Anzi, io consiglierei anche di abolire gli antibiotici, così magari si può morire anche per una bella faringite, una laringotracheite. Ma sai che soddisfazione sui necrologi, è mancato l'affetto dei suoi cari a causa di una laringotracheite. Meraviglioso. Bravi. Vabbè, dai, ci dico un argomento un po' più leggero, no? C'è stata Miss Italia con Francesco Facchinetti a condurre. Bravo Francesco Facchinetti. Tra l'altro, prima di fare il conduttore è stato l'autore di canzoni successo che tutti noi a distanza di anni cerchiamo ancora di dimenticare, canzoni di fronte alle quali persino Despacito assume la sua dignità. Bravo Francesco Facchinetti, ma bravo anche la Sette, bravo. Perché ha capito che ormai Miss Italia è una manifestazione stanca che si avvia a chiusura, e allora l'ha affidata a un conduttore che può accompagnarla serenamente all'epilogo, e hanno capito che Francesco Facchinetti potrebbe essere la persona più adatta per farla chiudere, quindi bravo. Francesco Facchinetti, il liquidatore. Francesco Facchinetti, io penso che anche la Sette, dopo aver affidato la conduzione Miss Italia a Facchinetti, si chiamerà la 6 e mezzo. Comunque bravi, ragione a tutti, le piace anche la musica, ma tantissimo. Bravissimi Elvis Presley, Rolling Stone, Tiziano Ferro. Ma c'è qualcuno che non le piace? Fedez, bravissimo, anche Fedez. Davide Van Der Sfrance a sto punto ho dei dubbi. Ci vanno esplosi dei dubbi, effettivamente. Comunque bravo anche lui. Il nostro Leonardo Manera. Insomma, qui siamo ormai agli ultimi 2 minuti. Vogliamo ricordare ancora, ci è venuto a trovare Davide Van Der Sfrance, il funambolo di oggi. Quando è? Il 21 settembre? No, magari 23 settembre. Ma facciamo un ringraziamento al parrucchiere di Manera, per favore, che ogni mattina per allora, noi porta dei... No? Io lo faccio soprattutto perché siamo in diretta Facebook e spero che qualche donna, vedendomi così dotato di capelli, si innamori e si incapricci di me. Diciamo ragazze, così, a seconda dei vostri gusti, lui porta i capelli che preferite. Li può portare lunghi anche come i moicani. Stiamo facendo la radio, ma guardiamo le telecamere. Dammi la due. Allora, nel ringraziare Davide Van Der Sos che ci è venuto a trovare, come ci vuoi lasciare, Davide, con qualcosa? Io vorrei lasciare scendendo dal filo, ringraziandovi proprio per la bellissima mattinata. Io, parlando di farmaci e queste cose qua, me ne intendo, ma posso dire non ho paura, perché sono io l'effetto collaterale della mia esistenza, quindi è già così. Hai dimenticato secchezza delle fauci, certo, che è quella che mi fa sempre molta paura, perché manco fossi un leone. La secchezza delle fauci. Comunque io voglio dire, grandi, andate avanti così, che i fili saranno sempre molto stati belle, molto, e stiamo in equilibrio. Ci lasci anche con un 30 secondi. Se vi lascio non vale, se vi lascio non vale, se ci lascia non vale, se ci lascia non vale. male. Dentro questo studio ho tutta la nostra passione. Non vedi, ci vedi può che stare. Ha un futuro. Oltre, oltre che come controfigura dell'attrice di Fast and Furious, ecco, ormai che cantare. Ormai è amore allo stato puro. Adesso ringraziamo Davide Van de Stross, ovviamente in redazione Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi. Niente mai. Il nostro Peter Bescapè in regia, i Funamboli tornano domani. Hai trovato il coraggio con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella. Wow.